Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Processo Tominaga, sentenza attesa il 10 giugno. Il PM ha chiesto 34 anni di condanna complessivi per i tre imputati accusati di omicidio preterintenzionale, di cui 12 per chi sferrò il pugno. Per potenziare il sistema sanitario ora c'è anche l'intelligenza artificiale, strumento importante anche per identificare prima dell'insorgere di una malattia la probabilità di sviluppare una patologia. Sul tema, una 2 giorni a Villa Manin di Passariano che si conclude oggi. La cultura può e deve aiutare a superare le differenze, lo ha detto il ministro della cultura Giuli inaugurando il festival Estoria a Gorizia. La circolazione delle idee sia un veicolo di pace, di dialogo, di confronto tra popoli che ora sono in lotta, il suo auspicio. Il gruppo Danieli formerà manodopera in Uzbekistan attraverso ITS Academy di Udine e l'Università di Torino, siglata anche una commessa a Samarcanda per l'ammodernamento di un impianto siderurgico del paese. Le truffe non colpiscono solo gli anziani, i ragazzini e persone di mezza età sono caduti nella rete. Poste Italiane spiega come difendersi. L'escalation di truffe legate all'adescamento con il trading online. Come la meccanica quantistica ha ridefinito alcune unità di misura fondamentali nella vita quotidiana come il chilogrammo e il secondo. A Trieste l'evento spettacolo con il premio Nobel Philips. Il Teatro Verdi di Pordenone celebra i suoi primi 20 anni con un omaggio alla lirica e con la mezzosoprano Daniela Barcellona. Il Teatro Nuovo Giovanni da Udine chiude il 2024 con un bilancio in utile e un incremento dei numeri relativi all'attività culturale. Sarà tratto dal romanzo La variante di Lunenburg di Paolo Maurensig, il prossimo film del regista Gabriele Salvatores. Lo ha annunciato lo stesso premio Oscar presentando gli 8 cortometraggi vincitori di Corti senza confine, progetto voluto dalla Regione in occasione di Go 2025. 9 punti di penalizzazione per la Triestina Calcio. Il Tribunale federale ha inflitto una sanzione più pesante del previsto per le inadempienze del club rosso labardato. Presentata l'edizione 57 della Barcolana, in programma il 12 ottobre con il consueto percorso nel Golfo. Quest'anno saranno coinvolti più territori e più discipline sportive. La Coppa d'autunno raggiungerà con i suoi eventi per la prima volta anche la Carnia. Un cordiale buongiorno da Daniele Lettig e da Elisabetta Zaccolo in studio per questa prima edizione del nostro giornale radio, ma prima di entrare nel vivo delle notizie, come di consueto, uno sguardo al tempo. Il cielo in prevalenza sereno sulla fascia occidentale, da poco nuvoloso a variabile su quella orientale. Queste le temperature registrate alle 6, a Trieste 18,5 gradi, a Udine 17, a Pordenone Gorizia 15,5, a Tolmezzo 12,5 gradi, a Forni di Sopra 11, a Tarvisio 10,5 gradi, a Sappada 9, a Piancavallo 7,5, sul Monte Lussari 7,5 gradi, sul Monte Zoncolan 7, a Lignano 20 gradi, a Grado 19,5. Queste le previsioni, cielo in prevalenza poco nuvoloso con venti di brezza, sulla zona montana più probabile cielo variabile, lo zero termico si porterà a ben 3.500 metri di quota rendendo stabile l'atmosfera. Attesa dal 10 giugno la sentenza del GUP sul processo per l'assassinio di Shinpei Tominaga, pestato a morte lo scorso anno a Udine da 3 ventenni trevigiani, ora imputati per omicidio preterintenzionale. Il pubblico ministero ha chiesto per loro pene fino ai 12 anni e 4 mesi di carcere. Dopo quasi 6 ore di dibattito, a Udine la giudice per l'udienza preliminare, Roberta Paviotti, ha rinviato al 10 giugno la sentenza per i 3 imputati nel processo Tominaga. Tenendo conto della riduzione di un terzo della pena per la scelta del rito abbreviato, l'accusa, sostenuta dalla PM Laura Collini, ha chiesto per il ventenne Samuele Battistella una pena di 12 anni e 4 mesi. Battistella sferrò il pugno fatale per l'imprenditore giapponese. Chiesti 12 anni, considerando nel computo anche una recidiva, per Abdallah Juama in videocollegamento dal carcere e 10 anni per Daniele Vedam, presente in tribunale, per la prima volta da quel tragico 22 giugno 2024, faccia a faccia con Giuseppe Venturini, l'amico che era con Shinpei Tominaga. Anch'egli picchiato dai 3 dopo un'altra aggressione ai danni di 2 muratori ucraini. Proiettati in aula i filmati di entrambi i pestaggi. Alberto Tedeschi, avvocato della famiglia Tominaga e di Venturini. Non è stato facile, è stato ripercorrere un momento molto delicato e difficile. Lui porta ancora i segni di questa esperienza drammatica della morte di un caro amico. Al di là delle lesioni aggravate, il grosso della richiesta di pena per Vedam e Juama è dato dal concorso morale nell'omicidio preterintenzionale. La procura ha mantenuto l'impianto accusatorio nonostante il parere contrario del tribunale del riesame e un ricorso non accolto dalla Cassazione. Guido Galletti, avvocato di Abdallah Juhamah. Al di là della pena per i reati che Juhamah non ha mai contestato, che sono le lesioni a Venturini e le lesioni al signor Petrov, rimane il problema di fondo, che è quello del concorso morale in omicidio preterintenzionale, che io reputo che non sia sussistente. Tino Maccarone, avvocato difensore di Daniele Vedam. Vediamo il 10 giugno che cosa deciderà il giudice, anche facendo riferimento al fatto che questa impostazione, soprattutto del concorso, gli è stato levato pregio già dai tribunali del riesame di Trieste e dalla Cassazione di Roma. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Presentato a Passariano di Codroipo il manifesto sull'intelligenza artificiale in sanità, a Villa Manin la due giorni sulle implicazioni di questa tecnologia nella cura dei pazienti, che termina oggi. Sfruttare l'intelligenza artificiale per potenziare il sistema sanitario colmando le criticità. La regione vuole essere all'avanguardia. Massimiliano Fedriga. La grande sfida qual è? Non è avere il device, ma modificare i processi, che ovviamente vuol dire cambiare l'impostazione nell'approccio al paziente per garantire intanto un monitoraggio costante e un supporto delle nuove tecnologie che possano anche permetterci di anticipare possibili criticità in termini di salute e migliorare la qualità della vita. L'intelligenza artificiale può essere utilizzata per anticipare l'insorgenza di una patologia prevenendola. Fondamentali in questo caso i database per la medicina predittiva con strumenti in grado di garantire la privacy. La vicepresidente dell'autorità garante per la privacy Ginevra Cerrina Feroni ha ricordato che per quanto riguarda il diritto all'oscuramento dei dati sensibili valgono le legislazioni regionali, che però non sono ancora uniformate. Il diritto alla protezione dei dati va rispettato e allo stesso tempo declinato nella miglior risposta possibile ai bisogni di salute della collettività. Così l'assessore Riccardi, che ha aperto il dibattito pomeridiano sull'intelligenza artificiale e i soggetti fragili. Da remoto è intervenuta la ministra per le disabilità Locatelli. Tariffe, liste d'attesa, riduzione delle prescrizioni errate. Secondo Domenico Mantoan, consulente del Ministero della Salute, dobbiamo accelerare. È certo che ci dovrà essere un utilizzo etico, è certo che i dati sanitari che utilizza l'intelligenza artificiale devono essere certificati. Uno dei momenti clou della prima giornata del Laboratorio Sanità 2030 a Villa Manin è stata la presentazione del manifesto sull'intelligenza artificiale in sanità, che promuove l'uso dell'AI per una sanità più sostenibile, equa ed efficiente, garantendo la sicurezza dei dati e un impatto sociale positivo. Passariano, Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Spostiamoci a Gorizia, dove ieri pomeriggio c'è stata l'inaugurazione del Festival E-Storia, giunto alla 21ª edizione. Intervenuto il ministro della cultura Alessandro Giuli, che ha anche visitato la città e si è soffermato su Go 2025. Le lacerazioni del secondo dopoguerra, la cultura mitteleuropea, la bellezza di Gorizia. Il ministro Alessandro Giuli ritorna nella città di Carlo Michelstetter per ammirarla e lodarla ancora. Dopo l'inaugurazione di Go 2025, ecco quella del Festival E Storia, con il ministro impegnato nella lettura di una poesia di Michelstetter che parla dell'amor di patria sul palco dell'Auditorium Friulano e poi davanti alla platea del Teatro Verdi. Prima dell'evento che apre la rassegna che spiega l'impatto del nuovo corso americano su una realtà sedimentata come quella delle città europee. Giuli spiega che le lacerazioni si superano guardando alle nuove generazioni, si superano conoscendo la storia e non rimuovendola, ricordando ciò che è stato, ma anche guardando a quello che dobbiamo fare insieme come italiani, come sloveni e come europei, per il bene delle nuove generazioni. Sentiamo il ministro. Cultura può e deve aiutare a superare le differenze. Il rapporto tra Gorizia e Nova Gorizia è l'esempio. Il Festival E Storia è un modello che si deve trapiantare il più possibile ovunque perché possa germinare e costituire nuova linfa. E naturalmente dobbiamo immaginare che la parola cultura, i libri, la circolazione delle idee, il piacere dell'intelligenza siano il veicolo di pace, di dialogo, di confronto tra popoli che ora sono in lotta, ma che nella cultura, spesso cultura comune, possono trovare un terreno d'incontro. Prima dell'entrata in teatro del ministro Giuli c'è stato un flash mob di protesta da parte di un comitato di cittadini in difesa della salute pubblica. Denunciata la mancanza di medici di base sul territorio e l'impoverimento di risorse umane ed economiche dell'ospedale di Gorizia. Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. e oggi sono più di 70 gli appuntamenti in cartellone per la seconda giornata di Estoria. Tra i principali, al Polo Universitario Santa Chiara, il grande medievista Franco Cardini sarà protagonista dell'incontro Le città e il sacro, Gerusalemme e Istanbul. Alle 15, all'Auditorium of Fogar, il giornalista Lorenzo Cremonesi parla del suo libro Guerra Infinita, dedicato ai conflitti che sono una realtà globale che non ci ha mai abbandonato in questi anni. Alle 17.30 sarà il turno del magistrato Nicola Gratteri, che al Verdi parlerà di Città della Camorra, spiegando quale degrado ambientale esista in centri urbani dominati dalle criminalità. Alle 18 la Biblioteca Statale Isontina ospiterà la presentazione di Appassionate, libro scritto dalle giornaliste Simonetta Fiori e Maria Novella De Luca sulla storia della conquista delle libertà da parte delle donne. La giornata si chiuderà alle 20.30 con l'atteso incontro con Alessandro Barbero, sempre al Teatro Verdi, dedicato alla Roma medievale. Il mondo del lavoro si allarga all'Uzbekistan, la ricerca di manodopera giovane da formare in loco per poi far venire a lavorare in Friuli Venezia Giulia, nel nostro sistema produttivo e manifatturiero. Continua a cercare giovani talenti in giro per il mondo, Danieli. L'azienda quotata alla Borsa di Milano, con sede a Butri, attiva nel settore siderurgico. L'ultimo accordo è stato chiuso in Uzbekistan, lo stato più popoloso dell'Asia centrale, con i suoi circa 32 milioni di abitanti. L'ex Repubblica Sovietica vanta una popolazione molto giovane, con tassi di fertilità tripli rispetto ai nostri. Il memorandum, nell'ambito del viaggio della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, hanno sottoscritto il documento l'ITS Academy di Udine e la sede di Tashkent del Politecnico di Torino. L'obiettivo è attivare un percorso virtuoso per la formazione, la specializzazione tecnica e l'inserimento di giovani talenti uzbeki nel sistema industriale italiano. Il programma prevede la selezione di studenti a indirizzo tecnico seguita da un primo ciclo di formazione linguistica e tecnica in Uzbekistan. Danieli garantirà sbocchi occupazionali in Italia a coloro che completeranno il percorso di formazione. Da tempo le imprese denunciano la difficoltà a reperire risorse umane con le competenze tecniche giuste per il sistema industriale italiano, una carenza che negli anni sarà aggravata dal calo demografico. Non è il primo accordo di questo tipo per l'azienda friulana. Già da qualche anno è operativa una collaborazione con l'Istituto Don Bosco del Cairo, ad esempio, un'iniziativa non dissimile da quella di Confindustria Alto Adriatico, che sta portando in Friuli Venezia Giulia giovani africani formati e pronti per lavorare nelle fabbriche del territorio. Sempre nell'ambito del viaggio in Uzbekistan di Meloni, Danieli ha siglato un accordo per l'ammodernamento di un impianto siderurgico del paese. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Circa 600 opportunità professionali in tutti i settori per laureati e studenti dell'Università di Udine, proposte da 39 aziende e da enti pubblici e del terzo settore. Sono i numeri che caratterizzano la 10ª edizione del Job Breakfast, la fiera del lavoro dell'Ateneo Friulano, che si terrà oggi dalle 8.30 in Piazza Libertà. Il primo appuntamento sarà la colazione con le imprese offerta a tutti i partecipanti, a seguire le presentazioni delle 39 realtà che partecipano, quindi i candidati che potranno consegnare i curricula ai rappresentanti aziendali e sostenere con loro colloqui individuali. A Trieste c'è uno sforzo corale per garantire un ambiente di lavoro sicuro all'interno del porto, dettato da una consapevolezza che lo scalo è una situazione complessa. Lo ha detto ieri il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, Tino Magni. Rientra nel circuito di missioni in alcuni porti la visita del senatore Tino Magni, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La visita compiuta allo scalo Giuliano segue quelle già avvenute a Genova e Monfalcone e a cui seguiranno visite in altre strutture del sud Italia. Positive nella prima giornata le impressioni ricevute nel corso dei rapporti istituzionali intercorsi. Positivo anche il commento sugli accordi stretti dai vari attori della realtà portuale, tra cui le autorità portuali marittime, Confindustria con le parti sociali e istituti quali l'INAIL e l'azienda sanitaria, avviati nel 2008 e a cui è seguito un ulteriore passo nel 2012, poi sfociato nel protocollo dell'agosto 2023. Il senatore Tino Magni. In questi anni di relazioni una parte, diciamo, si è abbassato il livello, diciamo, di infortuni, però c'è uno zoccolo al quale non si riesce a sfondare, cioè a non... Cioè rimane costante. Strumenti che però, ha sottolineato Magni, a Trieste come nel resto d'Italia vengono sempre attivati in seguito a infortuni. Alto il livello di coinvolgimento notato tra le parti, così come i flussi dei traffici in essere e l'attenzione data alle criticità presenti, tra cui la particolarità di lavori usuranti e in alcuni casi l'età avanzata dei lavoratori. Obiettivo delle missioni? Dare contributi per evitare la piaga degli infortuni sul lavoro. Trieste, Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia. Grazie ai lavori di ristrutturazione e potenziamento che SIOT ha commissionato a Fincantieri, il terminale marino della SIOT ha potuto accogliere la sua prima petroliera di dimensioni Suez Max, la Criti Future, che ha effettuato l'ormeggio presso il Pontile 1 alcuni giorni fa. Suez Max è un termine di architettura navale utilizzato per definire le dimensioni massime delle navi capaci di transitare il canale di Suez in condizione di pieno carico. L'attracco di una petroliera di queste dimensioni sottolinea l'incremento delle capacità operative del terminale grazie a questi lavori per i quali sono stati impiegati 44 milioni di euro. In Friuli Venezia Giulia, secondo Federconsumatori, si sta registrando una vera e propria escalation di truffe legate all'adescamento con il trading online. Ma le truffe non colpiscono solo gli anziani, anzi, le nuove vittime sono minori, spesso adolescenti troppo disinvolti con il cellulare, a dirlo Poste Italiane, che mette in guardia. Un uomo si presenta allo sportello delle Poste Centrali di Trieste, ha il telefono in mano, è nervoso e chiede di poter spostare 9.000 euro il più velocemente possibile da un conto all'altro, ma lì subito il sospetto che potesse essere vittima di frode. La collega è stata brava ad intercettare il pericolo perché il cliente stava visibilmente ricevendo istruzioni per telefono, quindi è riuscita a parlare col cliente, a fare le verifiche del caso e a fargli capire che in realtà i suoi soldi erano al sicuro, quindi non c'era nessun attacco. La vittima in questione era un uomo di 35-40 anni. Le truffe telefoniche non hanno successo solo con gli anziani, ci spiega Annalisa Di Marzo, responsabile antifrode nord-est di Poste Italiane. Anzi, oggi gli obiettivi prescelti sono i giovanissimi, che essendo fin troppo disinvolti con il cellulare, finiscono per essere bersaglio anche di telefonate pericolosissime. Solitamente arrivano delle telefonate nelle quali si paventa il rischio per il ragazzo di perdere i soldi che magari ha sulla sua carta ricaricabile e quindi gli si chiede di spostare la giacenza che ha lì. L'importante è non cadere nel panico, quindi agire con calma perché l'interlocutore è bravo a creare un senso di allarme di pericolo e per qualsiasi problema rivolgersi agli uffici postali. Nonostante siano quotidiani casi di cronaca che riportano persone che cadono nella trappola dei truffatori, Federconsumatori ha appena denunciato il caso di un uomo di Udine a cui sono stati sottratti 60.000 euro, Poste registra quest'anno una significativa riduzione di frodi andate a buon fine. Grazie a quest'opera di informazione e di sensibilizzazione siamo riusciti ad abbattere del 63% le frodi rispetto allo scorso anno. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. La meccanica quantistica ha ridefinito alcune unità di misura fondamentali nella vita quotidiana come il chilogrammo e il secondo. Il modo in cui misuriamo il tempo e la massa non sarebbero gli stessi senza questa rivoluzionaria teoria che descrive il comportamento delle particelle infinitamente piccole. È quanto emerso durante la conferenza spettacolo La scienza dei quanti, dalle rivoluzioni tecnologiche ai segreti della misura, promossa ieri a Trieste in occasione dell'anno internazionale della scienza e della tecnologia quantistiche. Organizzato dal Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam e della Sissa, l'incontro ha ospitato il premio Nobel per la fisica William Phillips in collegamento dagli Stati Uniti e il professor Vanderlei Bagnato dell'Università di San Paolo presente sul palco. L'evento, arricchito da dimostrazioni pratiche con laser, pendoli e voltmetri, ha ripercorso la storia della meccanica quantistica, le cui ridefinizioni hanno aumentato la precisione delle misurazioni e quindi le unità di misura basate su di esse sono più stabili e meno soggette a variazioni. L'impatto di queste ridefinizioni incide sulla ricerca scientifica e sulle applicazioni tecnologiche, come ad esempio la navigazione satellitare. Il Teatro Verdi di Pordenone celebra questa sera i suoi primi 20 anni dall'inaugurazione. In programma alle 20.30 un omaggio alla lirica con musiche tra gli altri di Mozart, Verdi, Bellini e Donizetti, eseguite dall'Orchestra del Verdi che accompagnerà il tenore Simone Fenotti e le mezzosoprano Daniela Barcellona e Giulia Alletto. Abbiamo chiesto a Giovanni Lessio, presidente del Verdi, un bilancio di questi primi 20 anni. Questi primi 20 anni sono stati 20 anni veramente di trasformazione del teatro, che ha assunto proprio una fisionomia di impresa culturale, trasformando anche il suo modo di proporsi con una programmazione spalmata su tutto l'anno anziché con la classica stagione. Questa è la cosa, diciamo, più importante, così come diciamo, significativo il fatto che il teatro ha avviato dei progetti molto originali anche a livello nazionale, qual è il progetto Montagna, che fa sì che il teatro si proponga nei comuni della nostra montagna pordenonese e che quindi avvicini le persone di pianura alle persone in montagna, portando tra l'altro questo servizio, questi spettacoli nelle nostre vallate. E qual è invece il programma scelto questa sera per festeggiare questi primi 20 anni? Questa sera diamo spazio al canto lirico con la Barcellona, questo mezzo soprano di statura internazionale, ma ospitando anche delle giovani voci, che anche questa è una caratteristica del nostro teatro, cioè quella di dare spazio ai giovani talenti e quindi fare in modo che il nostro palcoscenico diventi anche un loro trampolino di lancio, una loro possibilità di attestarsi, di affermarsi ancora di più sulla scena nazionale. Il Teatro Nuovo Giovanni da Udine chiude il 2024 con un bilancio inutile e un incremento dei numeri relativi all'attività culturale. Sono stati complessivamente 237 gli eventi ospitati, per un totale di 147.087 spettatori. I ricavi hanno raggiunto quasi i 4 milioni di euro, con un aumento di circa 525.000 euro rispetto all'anno precedente. Sono alcuni numeri del bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci della Fondazione, composta dal Comune di Udine e dalla Regione. L'incremento dei ricavi è legato in buona parte, è stato spiegato, alla crescita degli abbonamenti e delle vendite di biglietti. Gli abbonamenti sono aumentati di quasi il 20%. Nel 2024 è poi ripresa, dopo una pausa di 4 anni, la programmazione estiva, confermata anche per quest'anno. E dopo il successo riscosso al Verdi di Trieste, approda proprio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine il Rigoletto di Verdi, diretto da Daniel Oren, spettacolo conclusivo della stagione lirica. Alle 10 di oggi è prevista la prova generale aperta agli studenti, mentre alle 17.30 il critico Gianni Gori presenterà l'opera in un incontro pubblico, la prima domani sera alle 20. Sarà tratto dal romanzo La variante di Lunenburg di Paolo Maurensig il prossimo film del regista Gabriele Salvatores. Lo ha annunciato lo stesso premio Oscar, presentando gli 8 cortometraggi vincitori di Corti senza confine, progetto voluto dalla regione Friuli Venezia Giulia in occasione di Go 2025. Dopo aver ricostruito proprio a Trieste la New York del suo ultimo film Napoli New York, Salvatores ha deciso di girarvi anche il suo nuovo lungometraggio, ambientato tra Vienna e Monaco e con un cast internazionale di attori italiani e tedeschi. È un noir ambientato nel mondo degli scacchi, con due personaggi che continuano a sfidarsi, anticipato al regista di Mediterraneo, dai 14 ai 60 anni, come nel film I duellanti di Ridley Scott. Scritto nel 1993, il libro di Maurensig, che ha diverse assonanze con la novella degli scacchi di Stefan Zweig, ha vinto il premio Giuseppe Berto e il premio Procida, Isola d'Arturo e Elena Morante per l'opera prima. Quarto e ultimo appuntamento per la 14ª edizione del Festival Rose, Libri, Musica, Vino, che quest'anno indaga il tema del potere. Nel Roseto del Parco di San Giovanni a Trieste, alle 18, si parlerà del maschilismo e delle sue articolazioni con la giornalista Giulia Siviero, che presenterà il suo libro Fare Femminismo. Sentiamola. Il femminismo è un movimento unico, militante, diciamo, e creativo proprio per le pratiche che si è inventato nel tempo e che spesso sono rimaste un po' ai margini del racconto, dei libri. Sopravvivono nelle tradizioni orali, nei racconti orali delle femministe, sopravvivono nei volantini, ma in realtà appunto sono delle pratiche davvero molto creative, larghissime, che vanno appunto dalla presa di parola al fare da solo sempre insieme, il disertare, quindi il separatismo, le azioni radicali dirette, l'esibizione dei corpi, l'occupazione dei luoghi in cui le donne non sono né previste né le benvenute. Quindi io ho pensato di raccontare appunto questo filone, diciamo, o di approcciare il tema da questo punto di vista, soprattutto oggi nell'era dei social, in cui i corpi, le pratiche vengono meno. Quanto sono vive oggi queste pratiche e un po' più in generale, quanto sono sentiti i temi del maschilismo, della presenza del femminile ancora messa in discussione tra le giovani donne e magari anche tra i giovani uomini di oggi? Per fortuna il femminismo, diciamo, non è più vissuto come una parolaccia, una parola che è entrata nel nostro linguaggio quotidiano e anche nelle esperienze, nella vita di moltissime giovani, e questo invece è soprattutto grazie ai social. La cosa importante sarebbe però utilizzare, diciamo, questo mondo che ci mette in rete e che i femminismi hanno sempre funzionato per contagio, quindi oggi sarebbe molto più semplice fare rete tra di noi in varie parti del mondo, ma l'importante è utilizzarli non come un obiettivo autoconclusivo, ma appunto come uno strumento. Ci sono moltissime pratiche di cui ci dimentichiamo, soprattutto che ci arrivano dagli anni 70 e che invece potremmo rimettere al mondo, soprattutto sulle questioni che oggi sono al centro del dibattito, quindi per esempio l'aborto e l'educazione sessuale. Siamo allo sport, calcio di Serie C. Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato la Triestina con 9 punti di penalizzazione da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025-2026. Sanzionato insieme all'Unione anche il Messina, che si vede inflitti 14 punti di penalizzazione per una serie di violazioni di natura amministrativa. Il Tribunale Federale ha anche comminato sanzioni al presidente Rosenzweig per un totale di 7 mesi di inibizione e altre tanti per l'amministratore delegato Stella per il mancato versamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS, del fondo di fine carriera, nonché delle ritenute IRPEF relative agli incentivi all'esodo di dipendenti del club alabardato. Fresco reduce dalla vittoria dell'Europa League con il Tottenham, club inglese in cui gioca da 2 anni, il portiere di origini udinesi Guglielmo Vicario è stato ricevuto ieri a Palazzo d'Aronco, nell'amministrazione comunale del capoluogo friulano. Per Udine, ha detto il sindaco De Toni, era già una vittoria poter ospitare la Supercoppa Europea al prossimo agosto, ma il fatto che in campo ci sarà anche Vicario renderà questa partita un evento unico nella storia della competizione. Dove la passione incontra il mare, lì c'è la Barcolana. È lo slogan della 57esima edizione della regata più grande del mondo, presentata ieri a Trieste, in programma il 12 ottobre con il consueto percorso nel Golfo. Quest'anno saranno coinvolti più territori e più discipline. Aperte le iscrizioni alla Barcolana 57, confermato anche per quest'anno il Ticket to Race, la possibilità per persone singole senza natante di partecipare all'evento a bordo di una delle imbarcazioni della società Barcola e Grignano. Molti gli eventi collegati, Barcolana Fan Maxi Size, aperto a tutti dal 5 settembre al 5 ottobre per Wind e Kite Surf e Wind e Kite Foil. Solaris Adriatic Cup, Lignano Beach Sprint per il canottaggio costiero, Grado SUP per le tavole a remi, per la prima volta regata di modelli velici radiocomandati sul lago di Cavazzo e un'esibizione di parapendio, vela paralimpica con i campionati europei parasailing Hansa 303 ed Este 24. Ritorna la Fondazione Schmidt Ocean Institute per la salvaguardia dell'ambiente marino e il progetto Women in Sailing con le donne protagoniste. Sentiamo il presidente della società velica Barcola e Grignano, Mitia Gialuz. Sarà una barcolana di incontri tra comunità, tra sportivi diversi, tra territori. La barcolana per la prima volta arriva in Carnia. Il lago di Cavazzo è un luogo meraviglioso di una regione che unisce la collina, la montagna e il mare nell'arco di 3/4 d'ora. Tanti sport del mare, ma tanta cultura. Barcolana Summit, Barcolana un mare di racconti. In un mondo che si divide vogliamo lanciare un messaggio: l'incontro genera positività. A Trieste per i podisti Cavana Run per le vie del centro e poi Barcolana Nuota sulle acque antistanti alle rive. Il sindaco Roberto Di Piazza. La Barcolana è la più bella festa della città. Ne ho fatte una 20 in questi anni, ne ho vinto un paio. Quest'anno potremmo correre veramente. Comunque è una grande festa per la città, è una grande immagine per Trieste. Trieste, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Il grande windsurf torna a Monfalcone da oggi a domenica con la Coppa Italia Tecno e la 35esima edizione del trofeo Roberto Lipitzer, che porteranno nelle acque di Marina Giulia oltre 120 atleti da tutta Italia. Le regate vedranno in competizione ragazzi e giovani dai 10 ai 37 anni divisi in 4 categorie. 7:46 e 35 secondi, la nostra rassegna stampa. Più facile avere il bonus casa, titolano in prima pagina nella fotonotizia sia il Piccolo che il Messaggero Veneto. Proprio il Messaggero Veneto di Udine apre invece con il processo per la morte dell'imprenditore giapponese Tominaga. Chiesti 34 anni, il PM accusa i 3 imputati di omicidio preterintenzionale in concorso, la sentenza il 10 giugno. Un richiamo è per la sanità, dal 2021 meno infermieri, aumentano i medici e gli OS. Un altro è per l'accordo sulla formazione professionale siglato in Uzbekistan con l'ITS di Udine. Infine, il bilancio 2024 del Giovanni da Udine, il teatrone conquista sempre più pubblico. Nelle pagine locali, uno studio dell'IRES e del Comune sui giovani, proiettati verso l'estero e intimoriti dal futuro, l'identikit dei diciottenni. Bonus casa, come dicevamo anche in prima pagina del Piccolo, iniziamo dall'edizione di Trieste che è la fotonotizia della sanzione inflitta dal Tribunale federale alla Triestina. La barcolana spiega le vele, si estende fino alla carne e poi la querela infinita del nuovo acquario marino, chiuso da 5 anni. Il sistema di filtraggio è da rifare, questo è il verdetto dello studio Ingegneri Associati di Genova. Irritazione da parte del Comune che, sottolinea l'assessore ai lavori pubblici Lodi, in questa vicenda è parte lesa. Nidi ai privati, l'opposizione attacca, ma ora si contesta anche a destra. I miei timori si stanno traducendo in realtà, ha affermato l'ex assessore all'educazione Angela Brandi. Qui parliamo di smantellare uno dei fiori all'occhiello di Trieste. Linee marittime. Da domenica i collegamenti con l'estate, ma per la Trieste Grado servirà più tempo. Solo 2 i titoli che cambiano sulla prima pagina dell'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto. Eccoli. Travolto da una trave, ferito a Chion su un operaio di 24 anni. E poi, lavoro nero in un'azienda agricola di Raucedo, sanzione sino a 500.000 euro. Nelle pagine locali, la sanità. In provincia ci sono pochi medici, mancano oltre 100 professionisti. La situazione è insostenibile, dicono i sindacati e l'ordine dei medici. Allarme medici di famiglia, titola in prima pagina l'edizione di Monfalcone e di Gorizia del Piccolo. 19.000 cittadini senza dottore, 6.000 Gorizia, picchi del 38% dei posti scoperti. A Monfalcone i fedeli islamici chiedono un'area per la festa del sacrificio, domanda a sorpresa da parte dell'associazione culturale Prabash Bayrab. Taglia corto Anna Cisint, consigliera delegata alla legalità. La zona della Rocca, di cui si celebrano i 500 anni, è esclusa, si rivolge ai comuni vicini. Il comune si limita a dire che fornirà la sua risposta, come da legge, entro i 30 giorni. Delitto Tominaga, chiesti 34 anni, questo è il titolo del dorso di Udine del Gazzettino. Nella fotonotizia la replica dell'assessore regionale Riccardi ai rilievi della Corte dei Conti sulla sanità. In 4 anni il personale è aumentato. Un richiamo, sempre per la sanità, ospedale, sindacati preoccupati per gli appalti. E poi, per lo sport, lo storico Pala Benedetti diventa Casa Apu. Il dorso di Pordenone titola invece sul pacchetto di norme per limitare il fenomeno delle risse e delle aggressioni degli stranieri nelle comunità in discussione in regione. Minori violenti, scatta il pugno duro. Nella fotonotizia, giro di vite contro il degrado a Sacile, ok all'ordinanza antibivacco. E poi l'incidente sul lavoro di Chions, travolto dalle barre che stava pesando, grave un 24enne. Un ultimo titolo e poi per il traffico in città, app per i parcheggi, il prezzo aumenta. Alcuni appuntamenti previsti per oggi. Parte proprio oggi, durerà fino a domenica, a San Daniele il Festival della Costituzione, giunto alla 12ª edizione. Festival che sarà aperto dalla Lectio Magistralis di Alessandra Algostino, costituzionalista dell'Università di Torino, su guerra e democrazia, alle 17 all'Auditorium alla Fratta. L'Università di Trieste conferirà oggi la laurea magistrale ad honorem in diplomazia e cooperazione internazionale a Simone Bemporad, direttore delle relazioni esterne e comunicazione di Generali, per il contributo dato allo sviluppo della diplomazia culturale e alla diffusione di modelli imprenditoriali orientati alla trasparenza. La cerimonia si svolgerà nell'aula magna dell'Ateneo a partire dalle 15.30. Natura facit saltum è il titolo dell'incontro dedicato alla meccanica quantistica e al suo rapporto con la società che si svolgerà questa sera al Teatro Miela di Trieste con la partecipazione di Silvina Pons Dawson, presidente dell'Unione Internazionale di Fisica Teorica e Applicata, Giuseppe Mussardo, professore di fisica teorica alla SISSA, e Enrico Terrinoni, professore di letteratura inglese all'Università per Stranieri di Perugia. L'appuntamento è alle 18. Una giornata dedicata all'ascolto e alla corretta informazione promossa dall'associazione Amici Italia, impegnata nel sostegno alle persone affette da malattie infiammatorie e croniche intestinali. L'iniziativa dalle 9.30 alle 12 all'ospedale di Cattinara. A corollario dello spettacolo Il mio nome è Eddie, in ricordo dell'agente Muggesano che faceva parte della scorta del giudice Borsellino, andato in scena con successo in tutta la regione, l'orchestra Fiati Città di Muggia organizza 2 lezioni concerto rivolte agli studenti. La prima oggi avrà come filo conduttore l'ascolto e l'analisi della non violenza trattata nella grande musica cantautoriale del Novecento, alle 18.30 nella sala conferenze del comprensorio di San Francesco di Muggia. Apre oggi a Nova Gorica, Gorizia e Vipava, Mediterranea 20, la rassegna biennale dedicata alla presentazione di giovani artisti dell'area mediterranea. Questa edizione, a cui parteciperanno oltre 90 artisti e collettivi, si concentrerà sulla questione dei confini, di come si formano e come possiamo superarli. La presentazione è alle 20 al centro EPIC di Nova Gorica. Il giornalista tedesco e corrispondente dall'Italia, Udo Gumpel, soprannominato il cacciatore di nazisti perché da anni svolge ricerche per individuare gli autori delle stragi compiute dalle truppe tedesche in Italia, terrà oggi a Gorizia una conferenza organizzata dall'ANPI in cui racconterà delle sue ricerche, spiegando perché la giustizia in Germania e in Italia fu così lenta nello svolgimento dei processi. Alle 10 al Kinemax. Il percorso del progetto Via Torres, viaggio musicale lungo l'Isonzo ideato e proposto dal Centro Giuliano di Musica Antica, arriva oggi a Terzo d'Aquileia. La guida econaturalistica Simon Farfolia guiderà i partecipanti tra fiumi, rogge e fontane per concludere nella chiesa di San Martino con un piccolo concerto. Appuntamento alle 18. Parte oggi a San Giorgio di Nogaro l'edizione numero 22 di Itinerania, eventi tra gusto e arte, una festa che intreccia gusto, cultura, natura e scoperta del territorio. Momento centrale della prima giornata della Kermesse, dopo l'inaugurazione prevista alle 18, il conferimento del premio Itinerania, riconoscimento dedicato a chi si distingue per l'impegno culturale o civile. L'edizione vede premiati i genitori di Lorenzo Parelli, in memoria del giovane scomparso durante il suo ultimo giorno di stage. Da oggi a domenica un'accurata selezione di auto storiche colorerà Piazza Unità d'Italia a Trieste per la quinta edizione del concorso d'eleganza e sportività Città di Trieste organizzato dall'ACI. Fil rouge delle vetture selezionate quest'anno, l'innovazione. A Pordenone, al Liceo Grigoletti, va in scena L'amore secondo Platone, batticuore platonico, infatti il titolo dello spettacolo finale del laboratorio teatrale che ha unito studenti, docenti e personale scolastico guidati dalla regista Eleonora Pippo. Lo spettacolo andrà in scena all'auditorium del liceo alle 12. Una mostra per ricordare il passaggio di Giacomo Casanova a Trieste nell'anno del terzo centenario della sua nascita. L'esposizione In viaggio con Casanova, l'approdo a Trieste sarà inaugurata alle 16 al Museo Petrarchesco Piccolo Mineo di Via Madonna del Mare. Il giornalista e scrittore Alfio Caruso presenta questa sera a Trieste il suo ultimo lavoro, Incursori del Re, la vera storia della decima Mas, in dialogo con lo storico Davide Rossi, al Circolo dell'Esercito di Via dell'Università alle 18. Prima anteprima questa sera della 47esima edizione del Folkest, un omaggio a una delle figure più iconiche della musica contemporanea, David Crosby, al quale viene dedicato un concerto al Teatro Pasolini di Cervignano, inizio alle 21. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del nostro giornale radio. Alle 11.10 il consueto appuntamento con la rubrica in friulano. Gli scacchi sono uno sport sempre più diffuso tra i giovanissimi grazie a una presenza significativa nelle scuole. Un protagonista di questa crescita è l'associazione Scacchi Friuli Venezia Giulia, realtà attivissima con i suoi corsi, tornei e progetti proprio a scuola. Alle 11.20 andrà in onda Un tranquillo weekend da paura. Stefania e Leonardo partecipano al primo evento in programma per Gusto Carni ad Arta Terme, al concerto della Schubertiade al Castello di Miramare, a Muggia per il Beethoven Fest, poi andranno ad Aquileia per la prima dello spettacolo di danza Aquilea e non possono mancare all'Open Day del Conservatorio Tartini. Ed è tutto per questa edizione. In redazione ha collaborato Cristina Polselli, per la parte tecnica in regia Walter Vidonis e Andrea Fontanot, da parte di Daniele Lettige ed Elisabetta Zaccolo. Grazie per l'attenzione, a risentirci al prossimo giornale radio in onda come di consueto alle 12.30. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.